Ho girato in parte il mondo e mi son perso sempre dietro lei. La mia vita è un giro tondo e la notte sogno sempre lei. Chiudo gli occhi e sento solo il suo respiro accanto a me. È un destino quello di essere soli, soli come me. Lei è luce dei miei occhi, lei è un giorno in riva al mare. Lei è cibo dell'amore, è una gioia nel mio cuore. Sale, vorrei essere con lei, il suo viso accarezzare, il suo corpo su di me. Sono un cane bastonato di chiamare più non sa, sono solo un disperato mentre bevo penso a lei. Lei è luce dei miei occhi, al mare. Lei è cibo dell'amore, è una gioia nel mio cuore. Lei è luce dei miei occhi, lei è un giorno in riva al mare, è una gioia nel mio cuore, per me resta un grande amore.